Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. La sfida della qualità e del benessere. I racconti di oggi hanno questo denominatore in comune. Partiamo dai piaceri della tavola. La sua fama corre su internet, è dedicato a ricette e non solo. Che cos'è un tocco di zenzero? Il miglior food blog italiano. E si è guadagnato questo titolo al Blogfest 2009. Sandra Salerno, la sua autrice torinese, lo ha inaugurato nel 2005 e in 4 anni ha rivoluzionato la propria vita. Ormai si occupa dello shop online fino alla cucina a domicilio. È stata ribattezzata la cuoca volante perché Sandra arriva a risolvere la cena a chi non ha tempo, voglia o semplicemente non sa da che parte iniziare, e così ha trovato il suo mercato. La lampadina si è accesa strada facendo, perché il blog è nato come un divertimento, come un gioco nel 2005, quest'anno a settembre sono 5 anni. Poi dal blog quindi ci sono sviluppate delle attività correlate sempre al discorso della cucina, e strada facendo si sono accese più lampadine e adesso abbiamo proprio un neon gigante che lampeggia, nel senso che comunque grazie a questo gioco, questo diario che avevo messo online 5 anni fa, ho creato la mia attività. Com'è stata l'idea iniziale e quali difficoltà ha avuto nel metterla in pratica? Cucinavo come tutti quanti a casa, non avendo fatto una scuola alberghiera di base, non avevo e non ho una preparazione professionale tecnica di base, però l'esperienza, molti amici cuochi, molti amici chef in questi anni, un po' di lavori distribuiti tra qualche ristorante, cucine private, comunque qualche catering ogni tanto capitava e capita ancora, piccolo, comunque sono cose molto piccole, perché essendo da sola al massimo mi faccio dare una mano da un collega o comunque ho delle persone che mi danno un aiuto, e sempre solo discorso sulle mie spalle. Comunque è un lavoro abbastanza impegnativo e faticoso, però mi permette, per dire, domani voglio andare a vedere un museo, domani mattina prendermi 2 ore di buco, quindi di vacanza, solo per me lo posso fare. In realtà se avessi continuato un lavoro d'ufficio, comunque un impegno classico 9-17 o 18, certi spazi non me li sarei potuti prendere. Sembra che le difficoltà siano diventate virtù, diciamo, sono passate da difficoltà a vantaggi. Però lei ha avuto uno scoraggiamento, qual è stata la cosa più difficile da superare? Ma la più difficile è che qui a Torino, comunque torinese è molto chiuso, quindi c'è fatica nel far comprendere quello che si fa, difficoltà nel far accettare magari a volte dei preventivi che mi dicono a volte sembra così caro, in realtà poi se vanno al ristorante spendono la stessa cifra, però il servizio non è lo stesso. Una cena pronta a casa. Dal dire al fare quanto ci mettete, cioè quanto tempo ci vuole da quando ve la chiedono a quando la portate? Devo dare comunque almeno un paio di giorni di tempo per poter organizzare tutto, nel senso che devo, se mi fanno una richiesta per dire oggi, per domani è un po' difficile perché c'è da organizzare comunque il menù, la spesa, ed è difficile poterlo fare, però con 48 ore di anticipo si può, ci vuole l'approvazione del menù, quindi c'è da inviare un menù al cliente che mi approva il menù concordato, c'è da fare la spesa, da organizzare la spesa, e poi sul posto da realizzare i piatti, quindi comunque tra la cucina lì sono 4-5 ore di cucina e servizio almeno, e allora almeno altre 2-3 ore tra lo studio del menù e la spesa siamo sulle 8-9 ore come lavoro. Esiste un network, una moda, anche diciamo un network femminile che può aiutarla? Network in realtà c'è, ma non è solo femminile, perché io comunque in questi anni, grazie anche a social network, quindi a proprio luoghi di incontro su web, a parte Facebook che è esploso in questi ultimi 2 anni, ma che tengo sempre un po' da parte, perché preferisco altre cose, contatti diretti, quindi a volte ho molte persone che mi scrivono, donne che mi chiedono delle informazioni, che poi diventano magari persone che io conosco nel frattempo. Su Twitter ho trovato molti amici, molte persone con cui lavorare, e continuo ad avere dei contatti quotidiani quasi di probabili collaborazioni, quindi comunque grazie alla rete, quindi c'è un discorso di femminilità. Quindi anche grazie a Gammadonna e a Valentina Communication ho avuto delle possibilità, perché comunque lei conosceva un amico comune che io ho conosciuto su Twitter, quindi questo vede che comunque è comunque sempre un ritorno, cioè alla fine bisogna sempre essere aperti a queste cose, i network devono essere comunque un canale di scambio continuo, non bisogna chiudersi, perché se io posso dare la possibilità a qualcuno di collaborare con me, domani magari ho altre 4 persone che grazie a quell'uomo, a quella donna, a quel ragazzo che mi ha contattato per un consiglio, possono venire fuori dei lavori di un certo tipo, o anche solo delle conoscenze, delle amicizie. Il network secondo me è basilare per questo tipo di attività. Lei è una donna e quindi sa fare la spesa, secondo diciamo il pensiero comune. Riesce a ridurre i costi? Quanto costano le sue cene? Le cene di base siamo sui 45-50 euro, poi dipende sempre se c'è piatti particolari, se mi richiedono del pesce di un certo tipo, quindi comunque c'è anche il discorso spesa, perché io faccio per il pesce, per la carne, migliore qualità. Si sente un eroe in cucina, un'eroina della cucina? Eroina no, perché io sono contenta di quello che ho fatto e che comunque ho creato senza nessun aiuto esterno, perché ho faticato, perché dal 2005 a oggi sono 5 anni, cioè è iniziato, come dicevo prima, come un gioco, però sono contenta di aver realizzato un piccolo sogno e continuo a fare questo percorso, comunque grazie anche alle persone che mi vogliono bene, alla famiglia, quindi la cosa più importante secondo me è questa, quindi per loro sono un'eroina, sì. Lei prima che cosa faceva? Io ho lavorato in azienda con la mia famiglia per un po' di anni, poi vabbè, negli anni passati qualche ufficio, impiegata, così, comunque sempre lavori di ufficio, commerciale, marketing, legato sempre un po' al discorso delle vendite, quindi quella un po' è nel DNA della famiglia, perché mio papà è da quasi 50 anni che è qui a Torino e ha creato la sua attività comunque da solo, quindi c'è forse anche questo esempio di famiglia che mi ha spronato a buttarmi. Poi a volte mi dicono, ah, però io ho provato le tue ricette, vengono sempre, perché in realtà io quello che preparo, che si vede fotografato, che poi pubblico, è in realtà quello che poi noi mangiamo a casa o che faccio ogni tanto se faccio delle cene, però non è che mi invento delle cose per poter pubblicare dei post. Continuiamo con la cura di sé e senza sosta la ricerca di miglioramento secondo Pietro Solari, titolare di Dottor Solari Cosmetics. Pur lasciando inalterata nel tempo la natura di azienda artigiana della cosmetica, è arrivato a pensare anche a linee personalizzate. Nel piccolo, la sfida con i giganti si fa sulla qualità. Noi arriviamo da una lunga tradizione di parrucchieri. I miei nonni e bisnonni sono stati parrucchieri in un piccolo paese del Piacentino fino dal 1840, quindi è un po' una tradizione artigiana quella che ci siamo portati dietro nel campo della cosmetica e comunque del servizio alla persona. Ancora all'epoca forse non era così concepita ovviamente come è adesso. Mio padre ha fondato l'attuale azienda negli anni 80, passando prima da una realtà di distribuzione, quindi distribuiva prodotti di altri, dopodiché il passo per iniziare a produrre è stato abbastanza breve. Erano anni in cui c'era un'apertura forse più veloce del mercato per poter intraprendere anche un'attività di produzione, non c'erano sicuramente tutti i vincoli anche legislativi che incontriamo adesso se vogliamo intraprendere una nuova attività. E quindi dalla distribuzione alla produzione il passo è stato fatto da mio padre nell'85. Di lì l'azienda si è sviluppata fino a che non sono entrato in azienda io negli anni 90, io mi sono diplomato nel 95, poi ho fatto l'università, sono lavorato in farmacia proprio perché pensavo già che questa sarebbe stata la facoltà migliore per andare ad affrontare il lavoro che facciamo. Quindi l'idea io ce l'ho da sempre, non si è accesa una lampadina che mi ha portato di punto in bianco ad occuparmi di cosmetica. Ho forse cambiato un pochino l'approccio rispetto a quella che è la gestione un po' più artigianale. Noi siamo tutt'oggi un'azienda artigiana, però ad esempio dall'inizio dell'anno abbiamo deciso di trasformarci in società di capitali, perché comunque trovo che nel 2010 questo tipo di struttura sia sicuramente più adeguata a quelle che sono ormai le condizioni del mercato, a quelli che sono anche i volumi che abbiamo raggiunto nel corso degli anni. Però rimaniamo una piccola società, perché questo ci permette di essere molto più versatili agli occhi dei nostri clienti. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto un grosso investimento che ci ha consentito di realizzare uno studio di grafica interno e un ufficio di marketing che serve a noi, ma ci permette di mettere a disposizione questa tecnologia, questo know-how anche per tutti i nostri clienti. Quindi oggi noi siamo in grado di realizzare delle linee complete, personalizzate per i nostri clienti, arriviamo addirittura alla consegna dei cataloghi piuttosto che alla realizzazione di idee vere e proprie di marketing. Le difficoltà dalle parole ai fatti, dall'idea alla realizzazione che si incontrano, quali sono? Sicuramente ci si deve scontrare con un mercato che è sempre più agguerrito. Più volte confrontandomi con colleghi anche di altri settori si percepisce proprio questa difficoltà legata soprattutto alla concorrenza. Stiamo vivendo un periodo che sappiamo essere assolutamente di crisi. Il nostro settore, il settore della cosmetica, in particolare quello della cosmetica professionale, sono stati toccati molto poco da questa crisi. Difficilmente si sentono dei cali di fatturato come quelli che purtroppo sentiamo in altri settori. Però c'è un rovescio della medaglia, cioè è un settore che ha basse barriere d'ingresso, quindi non necessita di grossi investimenti in impianti, di grossi investimenti in tecnologie, quindi tutto sommato non è così difficile oggi mettersi a produrre cosmetici e in particolare cosmetici professionali. In più dobbiamo aggiungere che ci sono tutta una serie di strumenti informatici, internet, le email, Facebook o quant'altro che ci permettono di raggiungere sempre più clienti in tempi sempre più brevi a costi sempre più ridotti. Cos'è che aiuta il piccolo? Sicuramente la vita associativa nel mio caso noi operiamo in provincia di Lodi, non abbiamo una grossa filiera della cosmetica, non c'è una concentrazione tale, ecco, di aziende cosmetiche che ci permettano di proporci come un unico competitor sul mercato. Io sfrutto molto quelle che sono le offerte trasversali, diciamo, nella nostra zona abbiamo, come presso tante altre camere di commercio in Italia, un consorzio ad esempio che porta le piccole imprese della zona, quale sia il loro settore, sui mercati internazionali. Abbiamo sicuramente un'associazione di categoria che ci rappresenta, però il nostro è un settore molto polverizzato, perché il settore della cosmetica è fatto da migliaia, sicuramente centinaia, forse anche migliaia di piccole imprese, quasi tutte a gestione familiare, con volumi e fatturati e presenze anche sui mercati internazionali interessanti. Però ecco, secondo me bisogna cercare di fare rete in questo senso. La fa sentire un po' un eroe oppure no? La ringrazio. Eroe mi sembra forse esagerata come definizione. Diciamo che in tutte le cose, il lavoro prima di tutto, bisogna metterci grande passione e quindi io vivo la mia attività imprenditoriale quasi fosse una specie di missione. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it e appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.